davanti all'ambasciata israeliana. Ciao. Ciao, dunque sì, io mi trovo, come tu giustamente dicevi, a seguire la manifestazione, il presidio che si sta tenendo di fronte all'ambasciata israeliana, vicino al Giulia sostanzialmente, la zona, insomma, quella delle ambasciate, e al momento c'è una partecipazione ancora in divenire, visto che è passato appena in detta, insomma, con una certa rapidità. Quindi stiamo aspettando che arrivino ancora molte persone. Al momento ci sono circa una settantina di persone che sono ben visibili dalla strada e che hanno esposto striscioni della rete romana di solidarietà con la popolazione palestinese e che ricordano appunto questa giornata di lotta in Palestina, del ricordo appunto della Nakba, ovvero dell'espulsione dei palestinesi dai propri territori in concomitanza con la proclamazione dello Stato di Israele. Quindi il 15 maggio è il simbolo di questa Nakba, di questo disastro, come appunto il termine arabo. Sono stati esposti dei cartelli: napolitano, di qualcosa di giusto per la Palestina, e Israele spara sulle manifestazioni non violente, Gaza libera. Il richiamo a napolitano è abbastanza evidente, visto che nella giornata di oggi il capo di Stato italiano si è recato in un incontro con le rappresentanze istituzionali israeliane, incontro nel quale ha anche avuto un'uscita abbastanza infelice, ovvero riconoscendo sì l'esistenza di un problema palestinese, ma appunto relegandolo al fatto che si tratti di una problematica che riguarda esclusivamente la popolazione araba, che, al quale in qualche modo viene ricondotta la responsabilità di quanto è accaduto 60 anni fa e quindi di quanto continua a accadere. Quindi in un continuo rimandare esclusivamente a una delle due parti che in questo momento si stanno fronteggiando la responsabilità politica e storica di quanto sta accadendo in Palestina. È una giornata questa particolare perché ci sono, come insomma la radio ha seguito in tutto il corso della giornata, manifestazioni che si stanno svolgendo sia in Cisgiordania sia nella striscia di Gaza, anche grazie alla presenza di compagni e compagni che sono arrivati con il convoglio Restiamo Umani, e tra l'altro ci stanno arrivando, ma forse su questo voi avete anche maggiori aggiornamenti, notizie di azioni particolarmente violente dei militari israeliani che hanno sparato sulla popolazione che stava manifestando e quindi anche sui manifestanti internazionali che si trovavano nella striscia vicino a Erez, vicino al valico di Erez, che è appunto il confine con i territori palestinesi. Qui la presenza è abbastanza numerose e trasversali, sono presenti sì compagni e compagni, ma sono presenti anche persone che, diciamo, hanno risposto a questo appello, no, in questa giornata particolare, e che probabilmente si inserisce in un percorso di solidarietà con la popolazione palestinese che insomma a Roma, come nel resto d'Italia, ha le sue radici anche molto lontane nella nostra storia politica. Penso che per questo per il momento ci possiamo fermare qui. Ovviamente forse quello che possiamo fare anche con la radio è tenerci in contatto, anche perché noi possiamo dare notizie che arrivano da Gaza anche qui in piazza e aggiornare le persone che si trovano qui. Allora, le notizie da Gaza sono che ci sono...